1958 fu un anno funesto per i frequentatori delle case chiuse, dato che proprio quell'anno entrò in vigore la legge Merlin che ne sancì l'abolizione. Ma fu davvero quella la fine della prostituzione a Bologna e in Italia? Le intenzioni della legge erano di mettere fine allo sfruttamento della prostituzione, che nel 1948 era stata dichiarata contro i diritti umani dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite, un concetto ribadito dalla Convenzione del 1949. Per l'Italia, quindi, che fu ammessa nell'ONU nel 1955, era necessaria una legislazione per garantire il rispetto di questi principi. Con l'entrata in vigore nel marzo 1958 della nuova legge, venne dato tempo fino a settembre dello stesso anno per la chiusura di tutti i bordelli presenti sul territorio. Le cronache riportano che la notte del 20 settembre Bologna divenne teatro di una singolare manifestazione, con una folla di nostalgici radunata di fronte agli ultimi quattro casini superstiti alla vigilia della chiusura definitiva. Alcuni irriducibili ex clienti si presentarono infatti con ceri funebri alla mano e corone di alloro da depositare all'ingresso. Gli scapoli erano a volto scoperto, mentre gli sposati, per non essere riconosciuti dalle famiglie, indossavano un cappuccio. Si può dire che la legge Merlin pose fine a un'epoca, decretando l'abbandono di una serie di rituali legati al mondo delle case chiuse che si erano consolidati nell'arco dei secoli. Prendiamo il caso di Bologna, per esempio. La fama della città, già nel Medioevo, era quella di un luogo dove le arti amatorie avevano una certa diffusione. A ben pensarci, il motivo era evidente. Trattandosi della sede dell'università più prestigiosa dell'epoca, attirava studenti da tutta Europa e con essi, naturalmente, anche una gran quantità di prostitute che a costoro offrivano i loro servizi. Questo causò nel corso del tempo una serie di problematiche legate al decoro, ma anche alla sussistenza. Non è un caso, infatti, che già nel 1237 le prostitute furono espulse dalla città con la scusa della difesa della morale, ma in realtà, come si legge dai documenti storici, l'intenzione era risparmiare vettovaglie in vista di una imminente carestia. In seguito, il comune si fece più tollerante, imponendo tuttavia una serie di regole, tra le quali l'obbligo di indossare un mantello corto senza fibbie o una fascia gialla su una spalla, o persino un sonaglio simile a quello dei lebbrosi. Non era loro consentito portare guanti ricamati né utilizzare sete o profumi, per non essere confuse con le signore per bene. A partire dal 1295 l'esercizio del mestiere fu consentito soltanto nelle case tollerate dal podestà, da qui il nome Casa di Tolleranza, a patto che queste fossero lontane dai quartieri con scuole, conventi e luoghi di culto in genere. A partire dal 1630, addirittura, alle prostitute non era consentito transitare per via Santo Stefano durante il periodo di ostensione della Sacra Benda, ovvero il periodo in cui veniva mostrata una fascia che secondo la leggenda era stata indossata dalla Madonna in persona. Non era loro permesso nemmeno percorrere il centro cittadino durante la processione della Madonna di San Luca. Dalla fine del 1496, con il passaggio delle truppe di Carlo VIII, cominciarono le epidemie di sifilide, che gli italiani chiamavano mal francese almeno quanto i francesi lo chiamavano male italiano. E si rese necessaria l'imposizione di nuove, severe norme che obbligavano le prostitute a frequenti controlli sanitari. Per l'occasione venne fondata una confraternita che si occupava di assistenza alle meretrici presso l'ospedale di San Lorenzo dei Guarini, in seguito San Giobbe. Un giro di vita in tal senso lo impose la legislazione napoleonica ai primi dell'Ottocento, che a nuove norme igieniche aggiunse regole che vietavano anche l'addescamento in pubblico, la necessità di mantenere registri e orari, l'abolizione dell'affaccio su strada per i postriboli e la proibizione per i proprietari delle case di tolleranza di prostituire le figlie o ragazze sotto la loro patria potestà. Dal 1860 anche a Bologna le prostitute diventarono professioniste schedate con una precisa regolamentazione fiscale, oltre che sanitaria. Sappiamo che a operare in città erano circa 400 e che in media avevano circa 30 anni, di bassa estrazione sociale e un passato di cameriere o serve. Lavori che avevano dovuto abbandonare a seguito di scandali, quante domestiche sono state messe incinta dai rispettivi signori, o perché non in grado di garantire la sopravvivenza dei figli perché rimaste vedove. Da un censimento eseguito ai primi del Novecento risulta che la maggior parte delle case di tolleranza si trovavano in via Mirasole, vicolo del Falcone, via Belmeloro, via Piella, via Valdonica e via delle Oche. I bordelli più costosi erano concentrati in via dell'Orso, via Miramonti e via degli Usberti. Nei primi, le ragazze erano in genere poco vestite. Era soprattutto una questione di praticità. In questo modo, infatti, veniva meno la necessità di spogliarsi e rivestirsi durante le prestazioni e si poteva passare velocemente da un cliente all'altro. Nei secondi, le signorine si presentavano vestite di tutto punto, alla moda, tanto da sembrare delle gentildonne. Una curiosità. In un bordello di via Mirasole era consentita la flanella, ovvero la possibilità di trascorrere del tempo nell'atrio a osservare il via vai di ragazze, seminude. Nella prima metà del secolo scorso era questa un'abitudine diffusa tra gli studenti, che magari saltavano la scuola e passavano così la mattinata insieme agli amici. La parola deriva dal francese flâner, che significa appunto perdere tempo. Nel secondo dopoguerra, proprio un bordello in via delle Oche balzò nei titoli della cronaca nera per un singolare delitto. Il 30 ottobre 1945 venne trovato sulla strada di fronte al Civico 1, dove era situata una celebre casa di tolleranza, il cadavere di un ragazzo ucciso da un colpo di pistola al cuore. Addosso gli furono trovati una chiave inglese e una camicia rossa da donna. A quell'epoca un grosso problema di Bologna, come di altre città italiane, di notte era il buio. Non era infatti ancora stata ripristinata l'illuminazione stradale, non funzionante a causa dei recenti bombardamenti. Tenebre e ladri, due nostri nemici, titolava la stampa. E in effetti le strade, complice il buio, erano infestate da evasi, ladri, assassini e rapinatori. Il caso di Via delle Oche si rivelò piuttosto complicato e infatti rimase irrisolto. Gli inquirenti riuscirono a risalire all'identità della vittima. Si trattava di un ragazzo di 17 anni originario di Padova, un frequentatore abituale della casa di tolleranza, nonostante non avesse l'età legale per entrare. Quella notte alcuni testimoni lo videro litigare con un gruppo di persone, mai identificate, che stavano molestando alcune ragazze. Poco dopo che fu uscito, dall'interno si udirono alcuni colpi di arma da fuoco. Un dipendente uscì di corsa e trovò il ragazzo riverso a terra, privo di vita. Il giornale dell'Emilia definì il caso un delitto le cui origini sono avvolte nel più fitto mistero. È possibile comunque che si sia trattato di una banale lite tra avventori sfociata in tragedia, ma la cosa più curiosa resta il fatto che portasse con sé quella chiave inglese e quella camicia rossa da donna. Dicevamo che la legge Merlin, dunque, avrebbe dovuto porre fine allo sfruttamento di giovani donne in difficoltà, costrette a ripiegare sulla prostituzione per il proprio sostentamento o garantire quello dei figli. Ma com'è andata veramente? Di recente i volontari che si occupano di contrastare la tratta e lo sfruttamento della prostituzione hanno contato che sulla strada operano ogni giorno circa 400 esercenti, ovvero lo stesso numero registrato dai censimenti di un secolo fa. Dopo l'entrata in vigore della legge, l'adescamento per strada è diventato comune, una pratica che in passato non era assolutamente tollerata. Una delle zone dove si pratica la prostituzione a Bologna è il quartiere fieristico. E proprio via Michelino, sul finire degli anni 60, è stato teatro di un brutale omicidio. Si tratta del caso della giraffa, come era soprannominata la vittima, Clara Leonetta, una prostituta di 49 anni il cui cadavere venne ritrovato nelle campagne circostanti. È il primo omicidio, questo, del cosiddetto strangolatore di Bologna, a cui sono attribuiti una serie di delitti legati all'ambiente della prostituzione, compiuti tra il finire dei 60 e l'inizio dei 70. Inizialmente si pensò al movente della rapina. La borsetta della giraffa non venne mai ritrovata. Quello che era chiaro era che la donna era stata uccisa altrove per poi essere abbandonata nelle campagne. Si parlò di una misteriosa berlina nera in cui la vittima era stata vista salire, persino della possibilità che l'omicidio fosse maturato negli ambienti della malavita siciliana a causa di un processo in cui la giraffa aveva fornito una testimonianza. Tuttavia, intralciate dalla coltre di omertà dell'ambiente della prostituzione, le indagini arrivarono ben presto a un punto morto, lasciando il delitto irrisolto. Ma passò poco più di un anno e lo strangolatore tornò a far parlare di sé, scatenando tra la cittadinanza una vera e propria psicosi da mostro. Il secondo caso è quello di Speranza Marini, una donna separata che viveva in un appartamento di via San Vitale, dove conduceva una vita apparentemente tranquilla insieme ai suoi due figli e al suo nuovo compagno. Una sera del maggio 1970 venne ritrovata riversa sul pavimento del soggiorno priva di vita, strangolata. Accanto al cadavere una banconota da 1.000 lire appallottolata, come se in un accesso di rabbia l'assassino gliel'avesse lanciata contro. Questo e la presenza di denaro nella borsetta bastò a escludere il movente della rapina e a ventilare un possibile, ma mai dimostrato, legame con il delitto della giraffa. Le indagini della squadra mobile di Bologna, capitanata all'epoca dal commissario Mario Iovine, infatti scavarono nel passato della donna, scoprendo che conduceva una doppia vita. aveva affittato un appartamento in via De Mattuitiani, dove riceveva clienti e amici che la ricompensavano con omaggi o denaro. Un'altra prostituta, dunque, uccisa ancora una volta per strangolamento. Ma non è finita qui. Nei primi mesi del 1972 fu ritrovato ai piedi del Monte Paderno, nel calanco che costeggia Sabbiuno, parzialmente coperto di neve, il cadavere di Paola Tommasini, una giovane prostituta bolognese madre di due bambini. Come fosse finita lassù, tra i sentieri tortuosi dell'Appennino, sembra un mistero insolubile. Alcuni azzardano che un cliente l'avesse gettata fuori dall'auto, forse in un impeto di rabbia, e che fosse morta assiderata. Ma questa teoria fu scardinata alcuni mesi dopo, quando poco lontano dal luogo del ritrovamento del corpo venne rinvenuta una fossa, parzialmente scavata con una vanga, probabilmente interrotta per via del terreno compatto e della presenza di radici. Il sospetto è che il suo assassino volesse seppellirla nel bosco. E non è l'ultimo colpo di scena di un caso sempre più intricato. Un cronista scoprì che la carta d'identità della Tommasini era conservata negli uffici della questura dal giorno dopo l'omicidio. Emerse così che il documento era stato rinvenuto dagli addetti dell'ufficio postale durante le operazioni di smistamento della corrispondenza. Probabilmente l'assassino se n'era liberato insieme al portafoglio della vittima, depositandolo in una cassetta per le lettere lungo la strada che da Paderno porta a Bologna. Pochi giorni dopo, una lettera anonima giunse nella redazione del giornale Qui Bologna. Il suo contenuto recitava: «Alle 2 di notte Paola era interrogata su un'auto privata dal dottor Iovine e dal dottor Schettino, ovvero il capo della mobile e quello della buon costume. A essa non fu dato grande peso neanche da parte dell'opinione pubblica, e ben presto anche questo caso venne archiviato tra i casi irrisolti. Ma l'inquietante vicenda del presunto mostro di Bologna continuò 4 anni dopo, quando il cadavere di un'altra prostituta, Angiolina Di Pasquale, venne ritrovato in avanzato stato di decomposizione tra gli acquitrini dell'ex risaia di Boschi, una frazione di Baricella. Angiolina era un'informatrice abituale della polizia e si dice avesse confidato qualcosa in merito al caso Tommasini, prima di scomparire all'improvviso. L'Università del Crimine.